frequenze Sui Generis. Innamorati del femminismo. Ciao a tutte e tutti e bentornate e bentornati per una nuova puntata di Frequenze Sui Generis, il programma che vi tiene compagnia ogni lunedì dalle 14.30 alle 15. Oggi in studio siamo in due, ci sono io che sono Viviana e qui con me c'è Mari. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bene, come hai detto Vivi, siamo qua come sempre appunto il lunedì dalle 14.30 alle 15 e per chi ci ascolta già da un po' sa che prima di iniziare la nostra puntata, che oggi ospiterà un'intervista a Graziella Priulla che ha già parlato ai nostri microfoni, come dicevo, prima di iniziare la puntata aspettiamo di scoprire chi hai scelto come cantante musicista che ci accompagnerà per oggi. Vediamo se le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori lo indovinano dopo le prime parole della recensione. Si tratta di una musicista e attrice dotata di capacità vocali fuori dal comune. È celebre per il suo stile musicale largamente eclettico, comprendente molti differenti generi come alternative rock, folk, elettronica, musica classica, jazz, trip hop, techno, musica sperimentale, musica minimalista ed avanguardia. Inoltre, per il suo particolare abbigliamento di scena, per i suoi originali e discussi video musicali e per la sua personalità. Insomma, avrete già indovinato che stiamo parlando di Bjork. La musica di Bjork è sempre stata oggetto di molte discussioni ed analisi. I critici la definiscono costantemente come un'artista non definibile in nessun genere, ma considerata un'indomabile forza creativa e sperimentale. Il suo stile compositivo tende a essere eclettico e molto spesso impegnativo per l'ascoltatore. Durante la sua carriera ha unito i più diversi generi, creando una vasta gamma di tipologie tra i suoi album, dalla big band all'art sound, dalla classica all'elettronica minimale. Le sue tematiche affrontano temi personali, ideologici, sociali e scientifici. Vulcanica, dirompente, indefinibile. Bjork è un'artista complessa non facile da descrivere. Preferiamo perciò addentrarci subito nella sua musica andando ad ascoltare la prima canzone, Bachelorette. We'll be right back. Graziella, noi ti diamo il benvenuto, anzi il bentornata, perché sei già stata ospite dei nostri microfoni, quindi bentornata Graziella. Grazie, bentrovate a voi. Oggi parliamo con te a proposito di un libro che tu hai scritto, edito da Villaggio Maori, che si intitola Viaggio nel paese degli stereotipi, lettera a una venusiana sul sessismo. In poche parole, tu in questo libro immagini di spiegare a una venusiana che volesse venire a trovarci, insomma a scoprire il pianeta Terra, e vuoi provare un po' a spiegarle com'è la situazione sul pianeta Terra, soprattutto un po' alcune contraddizioni in cui potrebbe incappare, perché tu dici magari documentandosi prima di venirci a visitare potrebbe scoprire che qua si usano parole come pari opportunità, che ci sono stati dei documenti internazionali come la Carta dei diritti, la Conferenza di Pechino del 95, ma arrivando sulla Terra potrebbe accorgersi che qualcosa non va. E quindi quello che tu, come tu introduci il libro, racconti, diciamo, prendi un po' in prestito le parole a Foster Wallace con la sua celebre battuta sui pesci e l'acqua, quindi la battuta che dice: ci sono due pesci giovani che nuotano nell'acqua insieme, incontrano un pesce anziano che gli chiede com'è l'acqua oggi, e i pesci rispondono, vanno via e si chiedono ma che cos'è l'acqua. Quindi questo dà un po' il senso di quello che tu hai cercato di fare questo libro, cioè di cercare di parlare di qualcosa in cui tutti siamo immersi, ma essendovi immersi da sempre non vediamo. Allora, noi ti chiediamo, questo è un libro che spazia a 360 gradi, perché parla di tantissimi aspetti della vita, parla del tema della lingua, parla delle segregazioni lavorative, della cultura dello stupro. Allora, io inizierei facendoti una domanda in particolare sul discorso, iniziando insomma proprio dalla lingua, che essendo tu stata una docente per 40 anni di sociologia della comunicazione presso la facoltà di scienze politiche di Catania, questo è sicuramente un tema che mastichi moltissimo. Quindi, se una venusiana arrivasse oggi qui sulla Terra, che cosa troverebbe nella lingua che non tornerebbe tanto e di cui noi non ci rendiamo conto? Tantissime cose che facciamo tutti i giorni senza nemmeno accorgercene, cose che sfuggono perché siamo talmente abituati che passano inosservate. Lo stratagemma della venusiana è proprio per fare finta che sia qualcuno che non è stato immerso come noi in questa cultura, quindi nota le contraddizioni. Lì nel libro naturalmente faccio tantissimi esempi e sono quasi tutti tratti dalla mia esperienza con i ragazzi e con le ragazze all'università, ma anche nelle scuole. Quando gli fai notare delle assurdità proprio nel modo di adoperare la lingua, ti rispondono: in genere non ci avevo mai pensato. La cosa più banale, e che ai ragazzi maschi soprattutto fa molto ridere, è quella di cornuto, che loro dicono regolarmente urlando negli stadi all'arbitro quando non vede un fallo, quando dà un rigore che non ci sarebbe. E io gli domando semplicemente che cosa c'entra sua moglie, perché in effetti non pare molto logico alla venusiana. Uno può essere, come dire, etichettato come corrotto, come cieco, come venduto, ma perché cornuto? E allora di qua poi passiamo a parlare di tante altre cose. È un esempio molto piccolo, però l'esempio più macroscopico è quello sulle cariche di prestigio, sui lavori importanti che svolgono le donne. Naturalmente anche qui la battuta che si fa, la risposta che si dà è sempre la stessa. Io dico ministra e loro mi dicono suona male, non si può dire. E allora dico ma perché maestra invece suona bene e si può dire? Ah già, non ci avevo mai pensato. E così via. Potrei fare tantissimi esempi di questo tipo, ma è per mostrare come le discriminazioni che abbiamo abbattuto, che abbiamo credo ormai completamente eliminato dalle leggi e dalle norme, poi rientrano invece dalla finestra nella vita quotidiana, nel linguaggio di tutti i giorni. E il linguaggio è importante perché è indicatore di un modo di pensare, di uno scenario in cui siamo immersi. Certo, e vanno a creare la famosa acqua di cui parlavamo all'inizio dell'intervista, cioè quella in cui tutti siamo immerse, ma di cui non ci rendiamo conto. E questo credo che sia una parte importante del lavoro che noi dobbiamo fare, ma dappertutto, con gli amici e le amiche, in famiglia, a scuola, per strada, al bar, dovunque capiti, cercare intanto di evitare noi di cadere in queste contraddizioni, in queste stupidaggini. E poi anche di reagire quando altri lo fanno, perché sarebbe anche bello prendere posizione pubblicamente. Questo libro spazia su tanti temi, abbiamo detto, e quindi ti chiedo, passando diciamo da un tema all'altro, purtroppo il tempo a nostra disposizione non è tanto, ma vorrei dare veramente cognizione della vastità dei temi che vengono trattati, della vastità dell'acqua in cui siamo immersi. Allora, come spiegheresti a questa venusiana la cultura dello stupro? Perché tra l'altro è un'espressione che anche a dirla è molto intensa, molto potente, dire cultura dello stupro. Sì. Sembra un ossimoro, ma non è così. In fondo tutta la cultura in cui siamo immersi ci ha incentivati a pensare che in fondo, gli uomini per natura siano aggressivi, abbiano questo istinto che non si può reprimere, e che alle donne spetti il compito di prevenire, di difendersi, di non mettersi nelle condizioni di, eccetera. E anche qui il linguaggio ci aiuta, come ci aiutano le metafore. Io mi arrabbio moltissimo, per esempio, quando mi dicono: ah, ma si sa, l'uomo è cacciatore e la donna è preda, che è una vecchissima metafora, che è antica come il mondo. E quando gli fai notare che il cacciatore insegue la preda per ucciderla, e che quindi questa frase è solo l'inizio di un lunghissimo percorso, evidentemente molto lungo, ma lineare, alla fine del quale c'è il femminicidio, e anche qua la gente dice: ma cosa vuoi che sia, è solo una battuta, oppure non ci avevo mai pensato. Come quell'altra frase terribile: se l'è cercata, come se fosse una scollatura un po' più profonda o una gonna un po' più corta, oppure il fatto che io vada in una strada da sola possa causare un'aggressione fisica, cosa che ai maschi ovviamente non succede. Tutto questo fa parte di un repertorio, di un grosso, come dire, insieme di pensieri, di parole, di metafore, di esempi, di concezioni del mondo proprio, che sta alla base di quei fatti che poi sono quelli tragici che leggiamo sui giornali, ma sono anche le piccole quotidiane molestie che tutte stiamo subendo un po' dovunque. È nelle cronache di tutti i giorni. Recentemente c'è stato un raduno di alpini a Trento e sono piene le pagine di Facebook di testimonianze di donne che dicono che, dato che c'era questo gran numero di uomini radunati nello stesso posto, si sono sentiti in dovere di molestare, di palpeggiare, di strusciare, di fare battute. Tutto questo infinito repertorio che non è ancora stupro, ma è la cultura in cui nuota lo stupro. Certo, un'altra acqua appunto di cui stiamo parlando, infatti, perché è quella che, come tu dici, noi donne siamo come allenate, allevate a difenderci. E ricordo che girava un po' di tempo fa su Facebook una sorta di meme che diceva: cosa si aspettava dopo essersi ubriacata così tanto? Beh, si aspettava un mal di testa, semplicemente. Infatti, un mal di testa. Infatti. E se noi ci stupiamo di fronte a questa risposta, perché tutti invece ci aspettiamo una risposta diversa, cioè si aspettava che ovviamente le sarebbe dovuto succedere questo, questa cosa ci fa capire quanto stiamo veramente annegando, direi, in questa cultura dello stupro. È come se ci sbilanciasse. D'altronde sono secoli e secoli che si insegna a una donna a non farsi stuprare. Fin da quando sei bambina ti insegnano: stai composta, tieni le gambe chiuse, fatti accompagnare a casa la sera, non rientrare tardi, eccetera. E a un uomo non insegnano mai a non stuprare, e dovrebbe essere logico invece. Infatti la venusiana si stupisce di questo, perché chi agisce non è lei, è lui. Quindi se non si vuole un'azione, bisogna insegnare a lui a non farla. Questo, eppure, certo. Eppure, questo è pure il problema. Certo. Tu, Graziella, hai parlato prima di molestie. Allora ti chiedo di spiegarci, sempre come spiegheresti, come hai spiegato a questa venusiana, un altro tema piuttosto difficile che sembra dividere molto le persone, non soltanto uomini e donne, a volte anche fra le stesse donne, cioè la differenza che c'è fra molestie e apprezzamenti. Cioè, come si racconta questa distinzione a chi immaginiamo venire da un altro pianeta? Beh, a me pare abbastanza semplice, perché il discrimine sta nel consenso. Ora, prima cosa, un uomo in genere prende l'iniziativa nei confronti di una donna che non conosce. La molestia può accadere sull'autobus, nel bar, al cinema. Io mi ricordo un tempo, quando ero ragazza, non adesso, non andavo al cinema da sola, non perché non mi interessasse il film, ma perché ero terrorizzata che mi sedesse accanto qualcuno che mi dava fastidio. E quella è chiaramente una molestia. Come è molestia anche quella verbale. Io non capisco perché un operaio su un'impalcatura, o un ragazzo seduto al tavolino di un bar, o chiunque, deve permettersi di commentare il mio corpo se io passo per strada. Chi te l'ha chiesto? Che vuoi? Chi sei? Io non ho mai fischiato dietro a un bel ragazzo, non ho mai detto che bel sedere quando lui passava. Non capisco perché lui lo debba permettersi di farlo con me. Il corteggiamento e l'apprezzamento sono un'altra cosa, sono un gioco a due, è un fatto di complicità reciproca, è un fatto che in qualche modo, come dire, sottintende un consenso, ma il consenso deve essere in qualche modo esplicito e comprensibile. Non si deve dare per scontato che una donna ti dia consenso quando sta zitta, perché io posso anche stare zitta per imbarazzo, per paura, per buona educazione. È sottile, io lo capisco la differenza, però è molto chiara. Così, scusami, come chiara anche un'altra cosa, però questo discorso sulle molestie si è fatto soprattutto in correlazione ai fatti cominciati negli Stati Uniti e poi continuati anche in Europa di denunce di donne che ricordavano di aver avuto approcci esplicitamente sessuali da parte di datori di lavoro o di capi, diciamo, d'aziende, eccetera. E qui si innesta un altro discorso importante, che un uomo non può e non deve approfittare del proprio potere per un contratto di natura sessuale, perché una tale prevaricazione, un tale ricatto, un tale squilibrio fra le due persone, che è evidentissima la colpa di questo individuo. Però è anche vero che moltissimi, anche di fronte a una cosa così sperequata, ti rispondono: ah, ma se lei non voleva, poteva sottrarsi, ah, ma se ne è ricordata troppo tardi. Insomma, anziché stupirsi del comportamento del molestatore, si stupiscono della vittima. Quasi sempre il discorso viene ribaltato e questo è francamente insopportabile e noi non possiamo accettarlo più. Certo, infatti tu parli anche di questo a proposito appunto del victim blaming, cioè il fatto di puntare il dito e far in un qualche modo vergognare la vittima invece che puntare il dito contro al molestatore o alla persona violenta. E il discorso che tu hai fatto si ricollega proprio anche al discorso legato al potere che tu fai anche quando parli di violenza domestica, cioè quindi sì. Tu parli di violenza domestica non come dire una violenza il cui nocciolo è qualcuno che vuole fare male fisicamente a un altro, ma qualcosa di più profondo. Sì, perché non è poi soltanto violenza fisica, molto spesso è anche violenza psicologica, violenza economica, violenza emotiva in qualche maniera, però in questo purtroppo c'è anche un fraintendimento da parte di molte donne del concetto di amore, questo tipo di amore malato, questo fatto che ci induce a pensare che comunque poverino, sì certo però è un bravo padre, sì certo però sarà stato stanco dal lavoro, sì ma in fondo una ragazzina una volta mi ha detto: uno schiaffo è solo una carezza veloce. Ecco, non dobbiamo accettare neanche il primo schiaffo, non dobbiamo accettare neanche il primo insulto, dobbiamo smetterla di essere comprensive, oblative, dedite al sacrificio. Non è questo che ci fa felici, non è questo che ci rende libere. Certo, il tema della violenza domestica, comunque della violenza di genere, è ampissimo e quindi trattarlo in un'intervista così breve è praticamente impossibile, ma certo. È sempre importante ricordare queste cose. E quindi, visto che ci avviamo alla conclusione di questa chiacchierata, ti faccio, Graziella, un'ultima domanda. Sì. Tu a un certo punto nel tuo libro dici che lo stigma della puttana è un modo per controllare le donne e limitare la loro autonomia e anche la loro libertà di movimento. Vorresti spiegarcelo meglio, questa questione dello stigma? Guarda, abbiamo fatto una piccola ricerca fra i ragazzini e le ragazzine dell'ultimo anno delle elementari e del primo delle medie, sempre a Catania, interrogandoli su una cosa molto semplice e quotidiana, cioè quale insulto più facilmente viene rivolto a una ragazzina e quale a un ragazzino. E le risposte sono state assolutamente univoche, unanime. Per i ragazzi ci sono insulti legati soprattutto all'intelligenza, stupido eccetera, oppure insulti legati alla scarsa virilità, che significano sostanzialmente tu assomigli a una donna e quindi sei spregevole. Alle ragazzine già a 10 anni viene appiccicato invece, quando si vuole insultarle, tutto il repertorio di sinonimi legati alla prostituzione, e già a 10 anni ne conoscono moltissimi. Non so quanti italiani sanno che è uno dei tipi di lessico in cui ci sono più sinonimi, mentre per il cliente non c'è neanche un nome, perché cliente non vuol dire niente, eppure non certo. abbiamo trovato il nome di quei 9 milioni di uomini che ogni giorno vanno prostitute in Italia. Per le donne c'è questo repertorio vastissimo che viene adoperato comunemente, ma la cosa terribile è che lo adoperano per qualsiasi cosa, e lo adoperiamo anche noi per qualsiasi cosa. Quando esclamiamo una frase con questa parola, tipo puttana Eva, eccetera, per qualsiasi manifestazione di... come dire, di errore da parte di una donna, anche se passa col rosso, diciamo. Certo. È lo stigma preferito, perché per le donne è soltanto il comportamento sessuale quello che conta. Pensa che la venusiana si stupisce, perché in italiano uomo onesto vuol dire donna, uomo che non ruba. Se dici donna onesta, nessuno viene in mente che non ruba. Tutti pensano soltanto che è una donna fedele o una donna casta. Che la dice lunga anche sul concetto di onore, certo. e del modo in cui si adopera per le donne. E quindi noi, Graziella, ti ringraziamo. Soprattutto è stato bello terminare proprio con questo termine, puttana, perché invitiamo tutti quanti e tutte quante a ragionare su quante volte lo utilizziamo veramente a sproposito, perché come dici tu, quando qualcuno ci taglia la strada, quando la collega ci risponde male, quando, non so, la cameriera fa tardi a servirci un caffè, se stiamo parlando male di qualcuno, noi utilizziamo questo termine. Bene, possiamo già iniziare a fare qualcosa da oggi. Almeno purgare il vocabolario sarebbe già una grande conquista, se 60 milioni di persone lo facessero. Allora questo sarà il nostro augurio per tutte quante e tutti quanti. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi e grazie, sicuramente ci per risentiremo. Vi ricordiamo il libro di cui abbiamo parlato, Viaggio nel paese degli stereotipi, di Graziella Priulla, Villaggio Maori Editori. E continuate a seguirci su Facebook, alla pagina Frequenze sui Generis, dove troverete anche il podcast di questa e delle altre puntate. Ciao a tutte e a tutti.